a Dietro Begeno. Al mulino. Al mulino. Il mulino, mi diceva lì il signore, che ha funzionato fino al 1880 e dopo è stato dismesso, insomma. Prima, ante questa data, era uno dei mulini principali, penso io, di Cagliano, e poi è stato dismesso, insomma. Quella è la macina, che praticamente lì c'era una grossa pietra con un piano. Sopra c'era la macina che girava, era fatta girare dalla forza dell'acqua, e girando schiacciava il grano e faceva la farina praticamente. Ecco, ce n'era una per l'orzo, mi sembra, una per il grano e un'altra per segala o qualcosa del genere. Sì. E macinavano, era per quel che erano tre le ruote, perché c'erano tre macine. Esatto. Sì. C'erano tre macine, una più pesante e una questa più leggera. Com'è che facevano sostituire le ruote? Allora, le ruote le costruivano direttamente nel bosco, dove c'erano dei boschi o dove c'era la pietra adatta per costruire le ruote. Lì le preparavano già costruite, difatti si trovano ancora delle ruote mezze fatte o mezze rotte dentro in certi tipi di zone. Quando si rompeva la ruota andavano col carro, coi buoi, prendevano la ruota già preparata e la sostituivano. C'era molta attività, sai, c'erano nel 1700 qua, c'è un censimento che parla di 27 o 28 persone che abitavano qua, che tutti lavoravano, tutti facevano rumore. Ma come mai il mulino ha smesso di funzionare? Ma probabilmente perché nel 1896, questa è la grossa alluvione, sì. C'è stata una grossa alluvione che qua ha spazzato praticamente tutto, e in quell'occasione lì è diventato quasi inabitabile e allora ha smesso di funzionare. Come mai avete deciso di venire a vivere qua? Noi ci è sempre piaciuta la natura, mezza natura, e cercando così abbiamo trovato questo posto. Che carina! Guarda lei, toccala! Ma toccala!